Europa 24. È ormai alle battute finali il confronto fra l'Italia e la Commissione europea sul nodo dei crediti deteriorati delle banche italiane. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, questo pomeriggio, l'avete sentito anche poco fa, in effetto giorno, sarà a Bruxelles dove incontrerà il commissario alla concorrenza Vestager per limare i termini dell'accordo dopo un lungo negoziato che si prolunga da oltre un anno. Ormai da tempo Roma e Bruxelles stanno discutendo sul meccanismo da adottare per permettere alle banche italiane di vendere sul mercato le sofferenze e in sostanza ripulire i propri bilanci. La Commissione europea sembra essere pronta questa volta a dare l'ok, assicurandosi però come sempre che non si arrivi agli aiuti statali a svantaggio degli altri operatori. Al momento la soluzione sul tavolo prevede che chi compra da una banca il pacchetto di sofferenze ha diritto a una garanzia statale nel caso in cui l'investimento si rivelasse in perdita. In cambio l'acquirente deve pagare una sorta di assicurazione, il prezzo della garanzia pubblica. Proprio su questo tema si concentreranno le discussioni tra il ministro Padoan e la commissaria Vestager. Bruxelles vuole infatti un prezzo di mercato, non così basso da diventare un sussidio nascosto alla banca. Il governo italiano teme invece che un valore troppo alto possa scoraggiare gli investitori. Certo è che nessuno, ex vice premier danese compresa, può rischiare una crisi del sistema finanziario. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 ore. Altra questione al centro del dibattito europeo, l'immigrazione e l'eventuale sospensione del trattato di Schengen, che lo ricordiamo consente la libera circolazione di persone e merci fra i vari paesi europei. Il ministro degli interni di Varsavia, Mariusz Blaszczak, ha fatto sapere questa mattina che la Polonia porrà il veto a qualsiasi nuovo piano europeo che obblighi gli stati membri ad accettare quote di migranti. Non si può rinunciare a Schengen, fa parte del DNA dell'Europa, ha detto invece il ministro degli interni spagnolo, Jorge Fernández Diaz. Il passo indietro, che rappresenterebbe una rinuncia a Schengen, avrebbe un costo terribile, ha detto Fernández Diaz, economico ma soprattutto politico. Ed ora parliamo di olio d'oliva. Nell'Unione Europea potrebbero arrivare sul mercato 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino a dazio zero in più nel 2016-2017. A dare il primo ok dell'Europarlamento alla Commissione Commercio Internazionale. Il provvedimento è stato approvato con 31 voti a favore, 7 contrari e un'astensione. Le 35.000 tonnellate di olio si aggiungerebbero alle oltre 56.000 già previste dall'accordo di associazione Unione Europea-Tunisia, un aumento dunque del 40%. La misura è stata proposta dalla Commissione europea per mostrare concretamente la solidarietà dell'Unione dei 28 nei confronti della Tunisia in grave crisi economica dopo gli attacchi terroristici. La misura prevede anche una revisione di medio termine, cioè dopo un anno, per fare il punto della situazione. In Italia però arrivano proteste e preoccupazione. Vogliamo sostenere con misure concrete la transizione democratica della Tunisia, spiegano i deputati socialisti e democratici della Commissione. Oggi muore il Made in Italy, scrive invece il blog di Beppe Grillo. Si distruggerà la produzione olivicola pugliese, siciliana e non solo. Capito come Renzi cala le braghe a Bruxelles? Su Facebook scrive il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. La decisione della plenaria dell'Assemblea di Strasburgo è prevista per il mese di febbraio. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 ore. E buone notizie arrivano da Eurostat. Il turismo europeo continua a crescere e segna un nuovo record di notti per il 2015 con 2,8 miliardi, in crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente. L'Italia si conferma terza con un trend in crescita. La Spagna resta di gran lunga la meta favorita e ancora in crescita. Seconda la Francia, quarta la Germania. Sono soprattutto i paesi dell'est però dove il turismo è cresciuto di più nell'ultimo anno. Fra questi spicca la Romania. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.